visto che io non posso salutare l'amico di Cagliari, magari lo sento basso e lui non mi sente per niente, ti dico qua, salutamelo. Ma arrivare a parlare male di quello forte disastro di Malagazzo è, ma che ci fieri è, io non ho capito questa cosa, è proprio, per me è proprio roba da matti, per me sono persone che non hanno passato la terza asilo, all'asilo si fa il carattere, capito? All'asilo loro non hanno passato la classe, sono arrivati alle elementari con una lacuna, io la penso così. Sì Fabio, gente che ha problemi mentali davvero, ti ripeto, ma ci sono rimasto di merda. Infatti c'avevo, non mi ricordo chi c'era a fianco a me che rideva, ho detto cazzo tu ridi, ridi, cazzo io devo far vedere di me, non so manco chi io sono qua nel tavolo. Inizialmente me l'ho presa un po' così, no? E nel tavolo a fianco a me c'era Gigi, tutta la truppa di quelli del 45, ti parlo di tanti anni fa. Però poi cazzo alla fine ho detto, ma cazzo ma chi stava a vero? Ma cosa è convinto? Ma cazzo sto parlando? Bruiterno, parlava in campidanese, poi non so che cazzo c'era, la provincia di Cagliari, provincia di Oristà, Gustumere, cazzo, ma mi era entrato in testa sto cazzo di Gustumere, siccome ho lavorato tanti anni a Cagliari, quindi capisco molto bene il cagliaritano, e quindi cazzo ho puntato le mani sopra il tavolo, mi sono alzato dritto, ho detto ma stai parlando di me? E chi esegi tu? Io sono Claudio Spalviero, me lo dico c'è cazzo voi, gli ho detto proprio in sassarese. Hai qualche problema? Ti serve qualcosa? Cosa c'è? Cosa vuoi? Sono così, perché? Mi volevi diverso? Hai qualche problema? Dimmi cosa vuoi da Claudio Spalviero? Sono qua, dimmi, cosa c'è? E dopo che ci siamo un po', perché si è avvicinato Gigi, ha detto, cosa sta succedendo? Niente, un sugazzo di guglioni, è 2 ore che parla di me, non sa neanche cazzo chi sono seduto qua, io non mi conosce neanche, e quindi si è avvicinato Gigi, ha parlato con Gigi, eccetera, e poi la verità si è avvicinato, ha detto, guarda io non stavo, no, guarda ti ho sentito quello che stavi dicendo, quindi... Non capisco qual è il concetto del discorso che stai facendo con i tuoi compaesani di me. Io non ti conosco, tu non conosci me, perché stai parlando di me? No, perché sei l'unico, allora parlava l'italiano normale, no? No, perché sei l'unico che arrivi da noi, capito? Quindi stavo facendo chi esegichi, no? Ma chi esegichi non esegi? Sei da poco fa che stai, non dico offendendo, ma stai parlando con i tuoi compaesani di me che non sai chi sono, non mi conosci. E da lì un po' ci siamo insomma lacciati, abbiamo chiacchierato, abbiamo bevuto qualcosa assieme. Adesso quando mi sente, perché ogni tanto scende, che per insomma fa Sardegna continente anche, no? Quindi scende a Porto Torres per imbarcare, quando mi sente nel 10 entra a salutarmi, capito? Non siamo amici perché non siamo amici, però intanto c'è già un rispetto reciproco. Se io lì in quel contesto non mi fossi presentato, non mi sarei presentato, chissà cosa il gatto tutto abbia detto, capito? Quindi ti porto il discorso di quanta gente esiste con dei problemi mentali, capito? Antonella, ma la sedia si è caduta. Cosa vuoi? Sono qua, tranquillo. No, c'è uno che è entrato, chi è? Avanti. Stai morendo? Ci ha detto, sta morendo. Non so, ma comunque sia, sono tranquillo. Però bene, poi vediamo un po'. Non è quello che devi vedere tu se sei tranquillo o meno, io sono tranquillissimo, sereno, sto dialogando con Fabio di cose vissute, non penso di offendere nessuno, quindi è un dialogo abbastanza tranquillo e sereno, nel senso che si poteva anche evitare questo dialogo, comunque oramai è stato aperto e lo chiudiamo, ma stiamo parlando, il dialogo nostro è già chiuso, il dibattito nostro è già chiuso, Antonio. Non ti preoccupare, stiamo parlando di altre cose che sono successe e che continuano a succedere solo perché esistono persone che hanno sicuramente dei problemi mentali, capito? Quello è Fabio. È proprio così. A volte devi stare attento anche dove vai, perché c'è sempre qualcuno che ti guarda e dice no, mi cazzo, veramente ghiscio. Veramente chi c'è, non l'hai mai visto? No, io manco lo conosco. Azzo, lei inizia a parlare, Isso, tu. Ma tu come fai a giudicare una persona se io non la conosco? Perché la stai giudicando con me? Se io non ti posso dire sì, hai ragione, posso anche capire che stai dicendo balle, che lo stai facendo a pezzi per che cosa? Io non lo conosco. È nuda, continuavo. Io non lo conosco. Non ti posso dire sì, è vero, boh, cazzo, qui, là, no, nulla. Sempre così. Porca, qua guarda, come sono la mia, no? Io avevo al tempo la moto più bella della mia compagnia. Però è anche vero che se ti volevi fare un giro in moto con me, io ero contentissimo, ti sedevo dietro, l'ho fatta provare a tanti, ma non era così che funzionava. Io ero convinto di essere tranquillo e di non rompere i coglioni a nessuno. Invece uscivano le voci, usciva la voce che già è poco figo quella moto, tutto vuoto, non è nient'altro, ma guarda tu, figlio di papà, nessuno sa che io quella moto me la sono guadagnata lavorando e non poco, perché erano soldini miei, non erano soldini di casa, quella Aprilia, capito? E guarda quell'altro, e guarda cosa fa, quando sta facendo il gioco sporco, si sta trombando tutte le ragazze delle varie compagnie, si è trombato quella di Carbonati, si è trombato quella di Del Monte, si è trombato quella delle sorelle di Latte Dolce, e dire, sempre con voci dietro, e un giorno ero fruscio, non sai che sono fruscio, è chiaro, e l'altro giorno ero drogato, capito? Perché anche rimanendo nel mio, non riuscivo a tenere un profilo abbastanza basso da non dare nel ducchio. Io, anche se me ne stavo per conto mio, non c'era niente da fare. Sono cose della via in cui sto abitandomi, cioè di via Unesole sole, perché se tu mi dirò che signore l'ha fatto un vecchio di via Unesole sole, quello l'ho fatto io, a forza di andare avanti dietro con le moto, con le macchine, eccetera, vista casa mia. E proprio le persone intorno a me, che mi guardavano con le scarpe, non so di cosa potevano essere, pure quelle mi piacevano, le volevo, mi sono privato di ogni cosa, probabilmente, però alla fine sono andato, me ne sono comprate. Ecco il giubbotto dainese che ce l'avevo solo io a Sassari, comprato lì in via Umberto, e guarda caso quel disegno del giubbotto me lo prendo io, via, iniziano a spuntare come funghi, ma se addirittura più di Don Umberto, un giorno passando per prendere un ricambio della moto, mi ha regalato un giubbotto, mi ha detto guarda te lo sto regalando perché le cose te le metti tu, se te le metti tu addosso poi inizi a venderle, capito? Cioè, che cazzo di mentalità, io da chi l'ho visto quel giubbotto? Mica l'ho visto addosso a qualcuno e per quello ho detto è bello. Io avevo visto, c'erano tre modelli, dovevo girare molto in moto, giravo solo in moto al tempo, avevo freddo, mi sembrava un bel giubbotto che mi teneva bene, mi sembrava carino, con questa striscia che aveva dietro, sembrava carino, me lo sono scelto e basta, non è che ho fatto molte storie, però la gente intorno a me evidentemente, pure gente relativamente vicina qua, cioè il comportamento è allucinante, io ho sempre vissuto queste cose e tanto ne ho vissuto ancora non ne ho capito, io non ci ho ancora capito un cazzo di questo comportamento, non ho idea. Secondo me però stasera non è stata così male questa discussione, cioè Antonello ha alzato questa cosa e poi alla fine è venuto fuori il vero motivo per il quale tu stavi facendo certe prove in un certo modo. Secondo me non è così male questa cosa, perché ti ripeto, è già arrivata alle orecchie giuste e qualcuno in questo momento ha ruotato il VFO fino a 0,75, capito? Per sentire bene questa cosa. E magari qualcuno sta anche registrando, fidati. Per me possono fare quello che vogliono, capito? L'importante è che non la senta io la registrazione. Possono registrare, però se registrano lo devono ascoltare molto bene. E devono capire le parole che ho detto e quello che ho ribadito, perché veramente a Sassari ci sono grandi infami che poi vengono a rompere le balle a parlare con te, pensando che tu sei così coglione da poter non sapere ciò che lui ha fatto una settimana prima o 10 giorni prima, capite? E questo è il concetto. E questo è il concetto, Fabio, che molta gente è convinta veramente di essere furba, ma non è furba, è solo stupida, è solo stupida, capito? E a volte io faccio un conto sino a 10 prima di aprire la bocca, perché ti ripeto, se non conto sino a 10 veramente faccio danno, ma faccio danno forte. E voglio lasciar perdere determinate cose che sono successe negli ultimi periodi, però come ti ho detto prima, quando poi la padella è piena e il tappo salta, allora iniziano a cambiare le cose. Allora apro la Bibbia, allora dico, tu sei una di quelle persone che tal giorno è andato da Tizio, Caio e Sempronio e a me mi hai fatto piccolo quanto l'unghia, e adesso vuoi che io abbia rispetto nei tuoi confronti? Se tu vuoi che io abbia rispetto nei tuoi confronti, tu abbi nei miei, capito? Perché funziona così, no? Se tu rispetti, io ti rispetto, se tu non mi rispetti, io non ti posso rispettare. Cerco di conviverci, ma non ti rispetto. E la legge è quella, no? Quindi. E vabbè, chiuso questo capitolo. L'altro capitolo è quello della gelosia, perché quella c'è e rimarrà sempre, capito? Queste domande che continuano, cosa ti hai comprato, cosa c'hai, con cosa stai modulando, e cazzo è quello ce l'hai, e quello ce l'hai, e quello ce l'hai, primo Jugend a figurini. Ognuno pensi ai cazzi suoi, pensi a quello che è a lui, che uno pensa a quello che è all'altro. Non c'è bisogno di stare ogni volta sempre facendo le stesse domande. Tutto lì. Poi tu sei figlio di papà, io purtroppo lo ero figlio di papà, ma mio padre è morto quando io avevo 3 mesi. E sono diventato figlio di mamma, grazie a Dio, mi chiamo Marti di cognome, e lo posso dire a voce alta, che mi chiamo Marti di cognome, perché un nome è una garanzia, non ce n'è per nessuno, capito? Grazie a Dio, una famiglia di quasi nobili, di gente che sta bene e non ci manca un cazzo a nessuno, a me compreso, capito? Quindi non ho niente da incriminare né sul mio cognome né su quello che ho fatto. A 59 anni sono andato in pensione, quindi puoi immaginare tutto ciò che ho fatto per potermi permettere di avere quello che ho oggi e quello che avrà mia figlia un domani. Quindi Fabio, sono tutte cose che lasciano a desiderare i discorsi. L'importante è che ognuno pensi a casa sua e pensi ai cazzi suoi, detto in parole povere, perché c'è molta gente che pensa a quello che hanno gli altri ma non pensa a quello che deve avere lui o quello che ha lui, pensa sempre a quello che hanno gli altri e a quello che devono fare gli altri. Questo è il buon senso, questo è il buon vero senso della persona. Ognuno deve pensare alla propria persona, fare quello che deve fare con i suoi soldi e non pensare a quello che ha quell'altro, ai soldi che ha quell'altro e a quello che si è comprato quell'altro. Pensa a te, che a me vi ben su io, come dicono a Sassi. Cappa, non è che ti metto solo figlio di papà, no? Sì, famiglia, tutto quello che vuoi, anche famiglia con, insomma, una famiglia di una certa importanza in Italia, ho un cognome importante, però per gli amici sono Fabio Master. Il mio nominativo non è che ci ha messo molto a scegliermelo, tutti gli amici mi chiamano Fabio Master, io mi presento come Fabio Master e l'ho fatto sempre per non mettere il cognome davanti a me, capito? Perché è un cognome che, insomma, è pesante, non voglio essere giudicato per il cognome, voglio essere giudicato per il Fabio che sono. E poi in famiglia mia ognuno è se stesso, e il cognome viene un attimo dopo, tanto per. Il problema è che avendo questo peso in questa maniera, tutto ciò che io ho fatto di mano mia da quando ero ragazzino, ti posso garantire che ero molto molto molto più avanti dei miei coetanei, ma non del mio giro, anzi il mio giro era abbastanza alto, per intenderci, cioè di persone che avevano dei valori, di persone che, e si vede che la base è l'anima, capito? Persone che se hanno dei ragazzini, se avevi il motorino, voleva dire che ti hai dato da fare, avevi fatto il bravo ragazzo, avevi fatto qualche lavoretto, avevi degli ottimi voti a scuola, e per questo hai potuto, che so, durante l'estate riuscire a farti un gruzzolino. Io ti parlo di quando eravamo quasi bambini, e così ho visto che le persone vicino a me nella vita poi hanno costruito granellino a granellino, mattoncino a mattoncino, la loro vita, al di là del fatto che magari potessero avere chissà quali capitali della famiglia o quali cose, capito? Il discorso è che non va bene niente, sei simpatico e non va bene che sei simpatico, perché sei troppo simpatico lo fai apposta, e c'hai due amiche belle e automaticamente sei uno e chissà cosa hai detto a quelle belle amiche per fare, c'è sempre questo cazzo di giro, sempre questa cosa di denigrare la gente, quando sarebbe invece molto più bello se ci vantassimo a vicenda, perché lo spaziero, cazzo, lo conosco, minchia, che stazione che c'ha, mi sembra che mi ha detto che c'ha quell'apparato troppo figo, un giorno che magari ci conosciamo in verticale, in porta a casa sua, me lo fa vedere e magari riesco anche a scambiare due parole, capito? Sarebbe molto più costruttivo se ci comportassimo così, se dessimo valore ognuno all'altro e viceversa, ma pensa tu dove andremo. Però soprattutto i sardi, gli italiani se lo fanno, saranno altro per il più, ma soprattutto i sardi hanno questa sorta di concetto strano, perché se veramente ci prendessimo per mano e non ci dessimo un'altra per più della vicenda, altro che, sarebbe veramente misura felice. Poi alla fine facciamo campanilismi, ma neanche campanilismi, in questo campo potremmo dire antennismi, capito? Perché io ho un'antenna più lunga della tua, guarda dove cazzo riusciamo, così non andiamo da nessuna parte. Il concetto di civiltà, il concetto di facciamo un condominio, ci dividiamo le spese, non esiste più, non esiste proprio, siamo troppo lontani, così non andiamo da nessuna parte. E non mi dispiace per me che ormai la mia posizione me la sono fatta, i miei capitali me li sono messi da parte, adesso in questo momento di lockdown a me è dispiaciuto vedere persone che veramente non si avevano fatto le basi per fare due mesi senza lavorare, senza prendere stipendio, ma io sinceramente sì, ho preso botte economicamente parlando, però sono rimasto a galla tranquillo, cioè, non c'è niente che non abbia verificato, nonostante tutto, benché non abbia uno stipendio, perché non sono dipendente, benché non abbia una pensione, io comunque tutto quello che ho fatto lo sono fatto e sono riuscito a rimanere in piedi anche in epoche della mia vita in cui veramente le persone che erano intorno mi hanno guardato e hanno detto: ma come fai? Faccio perché mi sono sempre dato da fare e mi piace pensare che intorno mi sono circondato di persone che mi sono sempre dato da fare, capito? Non sono mai riuscito a invidiare nessuno e niente, e mi fa piacere se un Claudio Sparviero si compra la Giulia, per esempio, perché se la compri è il momento in cui ci dobbiamo veramente conoscere e me la devi anche far vedere. E anche perché una delle ultime parole di mio padre è stata: bella la Giulia, perché non te la compri? Ci sto pensando, anzi ci stiamo pensando, mia figlia, perché è giunta l'ora che la mia vada cambiata, e spero quest'anno di farcela, perché quella sarà la macchina che prendo, non c'è niente da fare. No Fabio, io prima lo facevo perché chiaramente a Sassari eravamo pochi, io ho iniziato tanti anni fa, ho tutte le foto proprio fatte con macchina fotografica e tutte le radio che ho avuto, le stazioni che ho avuto eccetera, perché ho sempre avuto sala radio, non ho mai avuto semplice baracchino, la radiolina del cazzo, ho sempre avuto una sala radio con tantissime radio molto molto belle. E c'era appunto un periodo dove in casa mia sempre piena venivano a vedere, a fare, che bello questo, bello quest'altro, e io ero molto entusiasta perché dicevo: ma fai vedere la stazione, vieni e te la faccio vedere. Erano pochi che avevano quello che avevo io a Sassari, e il problema è che dopo, quando uscivano di casa, andavano a sparlare. Sono arrivati addirittura a dire, e qua non ho più la lingua a dirlo perché forse c'è anche qualcuno che sta ascoltando, che lo saluto, non faccio il nome, che sa benissimo di qua sto parlando, perché lui è al corrente di tante mie cose, perché è una persona grande che stimo, sono andati a dire addirittura in quel periodo, ti parlo di tanti anni fa, che io compravo le radio, non davo a mangiare la mia famiglia, Fabio. Tu pensa alla malizia e la cosa schifosa che uno possa fare. Come cazzo sei venuto a casa mia? Hai bevuto, non hai mangiato, hai bevuto a casa mia, sei stato a casa mia, ti ho fatto vedere le mie radio, ti ho fatto vedere dove vivo, come vivo, perché vivo bene, non ho nessun problema. Ho anche una bella casa, avevo una prima, adesso ne ho un'altra ancora meglio, e un'altra ancora, e un'altra ancora, quella di via San Francesco, per dire. E dopo vai a farmi a pezzi in questa maniera, capito? Quindi figurati tu la cosa schifosa. Allora io ho detto basta, a casa mia non entra più nessuno, ed è già da tanti anni che non viene più nessuno a vedere i cazzi miei, nel modo più assoluto. Persone fidate come Massimiliano, che siamo come fratelli, come altre persone che sono venute a casa a farmi dei lavori, che ti ripeto saluto cordialmente perché sicuramente ancora l'ascolto, però altri no, finito, chiuso Fabio, ognuno vive a casa sua e vive con le cose che ha, le cose mie ce le ho io, sono mie, sono pagate da me e non, nessuno deve sapere i cazzi miei, finito. Capito? Io a volte dice mandami la foto, sì, clicco, le mando una foto magari di 5-6 anni fa, ma quello che c'è adesso non lo sa nessuno, all'infuori di una persona e basta, capito? Per dirti qual è il concetto di come sono cambiate le cose da prima, da adesso a prima, no? Quindi finito, chiuso i discorsi. Io ti dico solo che avevo 16 anni quando già avevo Vespone 125, Vespone, Piaggio, che era da Fighetti, da quello e da quell'altro, perché ho sempre avuto i quattrini in tasca. Macchine, non te ne dico quanto ne ho cambiate, ne abbiamo già parlato, macchine belle, grosse, sostanziose. Poi anche lì ho detto basta, perché qualcuno, sempre nella voce della falsità, dell'ipocrisia, ma soprattutto della gelosia, mi era arrivata alle orecchie che addirittura io oltre al mio lavoro facevo altro, mai capito, no? Per avere le cose belle, capito? A cosa si può arrivare, capisci? Senza sapere che Claudio Marti si è fatto il culo dall'età ai 16 anni studiando e lavorando, anche non avendone bisogno, perché grazie a Dio mia madre ne ha abbastanza di quattrini e ci ha fatto vivere come veri signori, ok? Però a me piace lavorare, perché io sono già in pensione eppure sto ancora lavorando, perché abbiamo una società familiare dove io sono l'amministratore delegato e quindi diciamo il responsabile, e perciò penso che abbia solo voglia di fare, non di stare seduto a casa o stare buttato ai bar mattina e sera, capito? Quindi mi piace ancora avere responsabilità, come l'ho avuta da sempre nel mio lavoro, sono stato sempre responsabile di quello che facevo, ma soprattutto con grandi responsabilità anche aziendali, quindi sono molto molto fiero di quello che ho fatto, della mia vita e dei miei sacrifici che ho fatto. Non me ne pento, non me ne pentirò mai, anzi continuerò a lavorare fino a quando Gesù Cristo mi lascia, perché ho veramente voglia di lavorare e di guadagnare soldi per comprarmi quello che mi pare piace, senza farmi mancare mai niente, capito Fabio? Tutto lì il discorso. Però esiste ancora questa gente, che nonostante abbia le cose sue, per carità, io non vado a criticare nessuno, a fare i conti in tasca a nessuno, abbia ancora questo senso di gelosia nei confronti degli altri. Questo è il nesso della cosa, mi fa più. Certo, io me la sto immaginando tua figlia piccola, che a posto di Benoni gli ha dato il mic, mentre tu andavi in giro a delinquere per recuperare i soldi. Me la sto proprio immaginando questa scena, capito? Proprio credibile, sì, tranquillo, e anche di me non l'ho detto, nessuno però se ne è uscito dicendo ma non è che Fabio magari è sparito di casa un mese perché non aveva abbastanza operai in quel periodo, faceva finta di chiudere i cantieri lui alle 5 e mezza quando se ne andavano i muratori e si faceva le nottate per riuscire a non prendersi le penalità dell'appalto, le nottate tirando cavi mentre pioveva in mezzo al fango, poi dice chissà come ha fatto sempre col macchinone, certo deve averlo un macchinone, c'è un bambino autistico, devo andare a Cagliari 3 volte a settimana, cosa ci vado con la 500, mi hai capito? La gente si fa tutti i film, decide lei come deve essere la tua vita e come girano le cose, lo sanno loro come la tua vita, non è che si occupano della propria vita e magari cercano di migliorarsela, capito? Stanno lì a invidiare, logicamente denigrando, perché tu se hai qualcosa vuol dire che l'hai rubato, non è che te lo sei guadagnato, mentre tu non ne puoi più perché hai il telefono mentre stai parlando con l'avviso di chiamata, lo devi buttare giù perché stai incrociando una pattuglia, tutto incasinato, che c'è già il ritardo con 3 clienti, mentre riesci a fare una cosa che manca un ricambio perché intorno a me nessuno fa quello che deve fare, ti serve un ricambio anche banale, soprattutto ad Olbia, devi veramente uscire di testa per fare un intervento per un lavoro, non è che vada a un fornitore, vai in 3 fornitori perché ti servono 4 pezzi e devi girare 3 fornitori per avere un pezzo da un pezzo dall'altro, sono cose che le persone non ci pensano neanche, no? Scusa, sai, mi sa che non ce la faccio venire perché sto lavorando, dai, rinviamo la pizza, non lo so se a domani o ci possiamo organizzare perché purtroppo sono incasinato. E cosa stai facendo? Non ho finito il lavoro, so che sono sabato, è sabato e sono 7 del pomeriggio, però ne avrò fino a mezzanotte. Non ci credo, ma vaffanculo, vai, hai capito come la dicono qua? Loro la pensano così, perché se tu hai qualcosa vuol dire qualcosa di veloce l'hai fatto, perché loro non sono in grado, non riescono ad essere in grado di rimboccarsi le maniche e costruirsi veramente una posizione, ma neanche metà della tua posizione, ma neanche metà della mia, capito? Non riescono a pensare che nella vita magari bisogna mettersi degli obiettivi e raggiungerli, a meno che l'obiettivo non sia arrivare al bar e fare un bello spritz il pomeriggio e la mattina per non dare nell'occhio che la diretta finale diciamo la bevo. Questi sono i loro pensieri, pensa tu. Ma sono stati solo quei pensieri, cazzo, me ne pongo niente che pensa veramente cose assurde, pensa cose assurde. Io ho iniziato nel 90 praticamente a Cagliari, alla Saras, che stavamo costruendo il depuratore della Saras, fate il conto, e poi ho continuato in quel settore. Tu immaginati che io mi ero già ritirato da scuola, perché mi ero ritirato in terza geometri, e poi mi sono riscritto per potermi diplomare per fare concorso all'ESAT, quindi immaginati tu. Già in quell'anno, nel 90, alla Saras, io stavo tutta la settimana fuori, mi sono sposato nell'85, nell'87 è nata mia figlia, quindi figurati 87, 88, 89, 90, mia figlia aveva già 3 anni e io ero già fuori casa, uscivo lunedì e rientravo il venerdì, capito? Quando a volte c'era necessità rientravo il sabato sera, alle 2 partivo, 2:30 partivo da Cagliari, alle 4 ero a Sassari, facevo praticamente il sabato sera, la domenica tutto il giorno, la domenica mattina alle 5 riprendevo la macchina alle 4, ma la strada non era quella, non ce n'era, la strada era tutta aperta, non era divisa come divisa adesso, quindi dovevi stare attenti a quelli che stavano venendo, colpi di sonno che non ti ammazzavano, quindi occhi aperti eccetera, per arrivare alle 7 alla Saras, timbrare e andare al lavoro, capito? E con soldi, perché io ho ancora le buste paghe conservate del 1990, quando io lavoravo alla Saras come assistente dei tubisti, praticamente preso subito il diploma, proprio perché ero già entrato nel settore, prendevo più di 3 milioni al mese, capito? Quindi mi potevo permettere quello che volevo, in tutto e per tutto. Abitavo già qua, perché mi sono sposato, ho aperto la porta, c'erano anche i quadri e le tende appese a casa mia, perché la casa ce l'abbiamo fatta con mia moglie, sono più di 40 anni con mia moglie, quindi ci abbiamo fatto la casa e poi ci siamo sposati, perciò non penso di dover chiedere niente a nessuno, anzi auguro a tutti di fare quello che ho fatto io, da giovane e da grande, senza nessuna presunzione, per la precisione, però ho dato tantissimo, non mi sono mai fatto mancare niente. Avevo la macchina, avevo la moto, mia figlia a 14 anni aveva il motorino, mia moglie aveva la sua macchina, avevamo tutto e abbiamo tutto, per carità, non ci manca niente. Però c'è sempre quello che dice, ma come cazzo ha fatto questo avere tutto quello che ha? Basta andare a lavorare. Perché sono molti parassiti che vivono alle spalle dei genitori. Io non ce l'ho mai fatta a vivere alle spalle di mia madre, capito? Ci ho messo sempre in condizione di avere tutto, però quello che lei a me mi dava non mi bastava. E allora ho deciso di fare quello e sono arrivato al mio obiettivo, che oggi a 60 anni sono a casa, posso grattarmi le balle, non me le gratto perché sono ancora giovane, ho voglia di fare, ma non mi mancava niente prima, non mi manca niente adesso, anzi, è tutto cosa in più, capito Fabio? Tutto qua. Vabbè. Antonello è lì che ti sta aspettando, quindi continua con lui, perché sennò davvero domani è un casino. Dai, è già l'una, io quando dormo 3-4 ore mi va benissimo. Ti saluto Fabio, un abbraccio, grazie delle due chiacchiere, veramente mi ha fatto un immenso piacere aver avuto questo dibattito, questo dialogo, scambi di idee tra persone umane. E saluto soprattutto chiunque fosse in ascolto qua sul canale 10 in FM, perché ce ne sono tanti. La notte porta consigli per qualcuno che sta ascoltando. Porta molto consigli, molto. Quindi riflettete soprattutto, e prima di aprire la bocca mettete molto il cervello. Non si sa mai che poi ci siano qualcosa non vere. Quindi la brutta figura ce la fate voi, non io. Ciao Fabio, un abbraccio, buonanotte, davvero non riprendo più perché è troppo tardi. Ti lascio in compagnia di Antonello. Ciao. Capacca, anche io chiudo che devo ancora cambiare il QTH. Adesso visto che mia madre ha abbassato un po' la guardia, perciò sono già libera. Riesco a farla dormire, a metà letto siamo a posto fino a domani mattina, speriamo. Niente, anche a me ha fatto molto piacere lo scambio di battute, lo scambio di pensieri, e mi fa piacere che tu abbia condotto una vita così, perché c'è vita e vita, capito? La vita ce la decidiamo noi, poi il fatto che uno non c'ha un cito in tasca, però per il massimo, questa è un'altra cosa, ma bisogna muoversi, lavorare e fare, e saltare le persone che tendono a essere parassiti di ogni tipo, parassiti anche a parole, parassiti che denigrano, parassiti che invidiano, parassiti che prendono i soldi allo Stato perché reddito di cittadinanza, che cazzo, c'è un po' di roba del genere, e c'è modo e modo anche di prendere queste cose, ci siamo intesi, no? Comunque, tra una coscia e l'altra, diceva Federico Maiale, mi sa che anch'io declino verso la buonanotte, io non so se Antonello è ancora sveglio, spero di sì. Antonello, sei sveglio? Dalla voce mi sembrava un po' calamaiato, comunque. Ciao Fabio, ci aggiorniamo, dai. Non ti preoccupare, ciò che è stato detto con realtà, veramente, perché la realtà dei fatti è quella, capito? E ti ripeto, ribadisco che chi vuole capire capisce, poi chi non capisce vuol dire che proprio non ha capito un cazzo della vita. Ciao Fabio, un abbraccio, a domani se coincide, ciao, buonanotte. Buonanotte anche a te, giustamente a tutti gli ascoltoni. A domani, buonanotte.